si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky world, uptown funky world. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ciao a tutti, benvenuti. 800 24 00 24 il nostro numero verde, come sempre ogni sabato e ogni domenica, per intervenire in diretta. Non come ieri in realtà, perché ieri c'è stata una puntata registrata, un meglio di. Meglio di, perché insomma, diciamolo, devo dirlo. No, intanto è bello iniziare una puntata di Si può fare senza sapere niente di quello che è successo in Italia, nel mondo, nell'universo, negli ultimi almeno tre giorni. Perché la notizia è questa: sono stato impegnato, mia moglie, sono stato a fianco di mia moglie che ha partorito ieri. Esatto, siete stati impegnati tutti e due, si è impegnati entrambi ovviamente, e quindi sei diventato babbo per la seconda volta e noi abbiamo festeggiato. Grazie, c'è anche l'applauso. È nata Olga, stanno benissimo e soprattutto adesso l'altro nostro cucciolo Viola ha una sorellina. E il fatto di avere un secondo figlio è interessante soprattutto anche per questo, per vedere come si inserisce. E certo, come reagisce la prima. Sì. Va bene, tutto questo per dire che oggi ci sarà qualche svista, qualche scivolone, non lo so, può succedere di tutto. Ah, vabbè, intanto però il gioco, quello c'è sempre. Il personaggio della settimana, assolutamente. Abbiamo un personaggio legato a una notizia di questa settimana che dovete indovinare. Noi vi daremo prima degli indizi. Andiamo subito con il primo indizio che vi vogliamo dare è questo: il nostro personaggio di questa settimana ha combattuto una battaglia. Perfetto, così. Perfetto. 800 24 00 24 e anche oggi naturalmente in palio i biglietti, due biglietti del catalogo. Credo che sia Gauguin, la mostra di Gauguin a Milano, al MUDEC. Hai la giustificazione per non saperlo, sì. Perché dovete sapere che Alessio è praticamente arrivato dalla sala parto un quarto d'ora fa ed eravamo qui e c'era l'ansia del tipo Gabardini va in onda da solo e io ovviamente ero emozionatissimo da tutto questo. Ma muoio, non è avvenuto. Muoio da ridere perché è tutto vero. No, andremo a estrarre dallo scatolone di 24 ore cultura una delle mostre, credo sia questa che è in palio e che è stata in palio e lo sarà ancora sicuramente, se no sarà un'altra, per chi indovina il nostro personaggio che ha combattuto una battaglia. Adesso iniziamo con il riepilogo un po' della settimana. Stiamo un po' attorno al groviglio ISIS, lotta all'ISIS sempre, si comincia sempre ISIS la mattina, religione, presepi, feste di Natale, avete già capito. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Eccoli qua, allora sentiamo un po' di voci di settimana su questi temi. Cominciamo con Renzi, ma poi andiamo avanti. Vai, cominciamo. L'Italia ha un numero di donne e uomini impegnati nei contingenti militari all'estero che è tra i più elevati al mondo. Questo perché deve essere chiaro a quelli che dicono ma che aspettiamo noi a fare? Non è che se facciamo un intervento in più o in meno questo denota il nostro tasso di partecipazione alla coalizione internazionale. L'Italia è uno dei paesi più impegnati al mondo. Punto. Poi c'è la questione, diciamo, religione, che prima ancora di entrare nel merito della questione, anzi se volete chiamare per dire la vostra, ma insomma è tutta la settimana che se ne parla, per esempio feste di Natale, giusto farli nelle scuole, non farli. Poi sulla questione Rozzano è già stato, credo, spero, precisato, ma insomma è stato preso un po' un abbaglio da parte della stampa perché non è stata cancellata nessuna festa. È stato detto tutto, direi. È stato detto tutto. Sentiamo però il prefetto di Roma a proposito della questione Giubileo che sta per iniziare. Quando inizia? Dopodomani, credo. Iniziamo un po'. Io personalmente sono un po' impreparato su questo tema. È anche Sant'Ambrogio a Milano, e poi noi abbiamo Sant'Ambrogio, voglio dire, noi altro che Giubileo. Gabrielli, vai. Io credo che i cittadini di questa città, come i turisti che verranno, i pellegrini, credo che siano e debbano essere nella condizione di venire tranquillamente, serenamente, per la ragione che la minaccia che incombe su noi è una minaccia assolutamente indefinita. Un atteggiamento preventivo vivo, credetemi, non ha nessun tipo di esistere. I cittadini devono pretendere che le istituzioni facciano tutto quello che è in loro possesso per garantire questa cornice di sicurezza. Questo insomma un giubileo che si annuncia all'insegna anche un po' della, possiamo dirlo, sì, dell'attenzione, dell'allerta, perché è giusto che sia assolutamente così a Roma da adesso, quando si inizierà, fino insomma per il prossimo, perché dura un anno il giubileo. Un anno, dura sì. Più o meno un anno. No, anzi, esattamente un anno. Oh, vabbè, adesso però diciamo le due parole su questa questione della scuola di Rozzano, giusto per riepilogare chi distrattamente se la fosse persa, credo che sia praticamente impossibile. Chi invece magari c'è entrata a un certo punto in settimana su questa questione e non ha, magari gli manca qualche tappa. Succede che la stampa diffonde la notizia che in una scuola primaria di Rozzano, alle porte di Milano, la festa di Natale, la festa musicale di Natale viene cancellata per far spazio ad una festa di inverno il 21 gennaio, una festa laica che non ha riferimenti a Natale, alle tradizioni religiose, perché il preside, diciamo, non voleva urtare le suscettibilità religiose degli altri e forse anche, così si può dire sotto traccia, anche degli atei, degli agnostici. Ricordiamoci che ci sono anche loro a scuola, che non ci sono solo i musulmani, solo che musulmani forse non hanno voglia di pregare che, la religione non cattolica, pregare nessuna religione. Ma al di là di questo, poi dopo si fa strada un'altra interpretazione, anzi prima i politici ci saltano sopra, soprattutto la Lega, naturalmente Salvini, che dice chi blocca Gesù deve essere licenziato subito, ma anche Renzi dice questo è un preside che fa delle provocazioni, salvo poi scoprire dopo che non è stata, lo dice lui, il preside, non smentito da altri, anzi il collegio docenti, gli insegnanti, i genitori sono tutti con lui, dice non è stata cancellata nessuna festa che era prevista. Semplicemente lui ha detto no a due signore che volevano, esatto, andare tra un'ora e l'altra a insegnare i canti religiosi, diciamo extracurricolari, diciamo così, no? E questo, la parte, parte monografica, che ognuno si sceglie quella che vuole scegliersi, nel senso che nella parte monografica uno può anche scegliere delle canzoni che non siano per forza delle canzoni cattoliche. Se tu dovessi scegliere, cosa andresti a insegnare tra un'ora e l'altra dei canti interessanti? Che ne so, potrebbero essere i canti partigiani, belli, che sono parte fondante anche della nostra cultura, oppure, assolutamente, non lo so, la Marsigliese in questo momento storico sarebbe altrettanto figo, secondo me. Vabbè, questo non è quello, so, diciamo, di canzoni che... non sono un esperto di canzoni, però posso capire che qualcuno dica forse non si entra ad insegnare solamente le canzoni, tu già scendi dalle stelle. E allora sentiamo le voci, andiamo con il preside, poi Salvini. Ho detto di no, perché se poi nelle feste di classe una parte dei bambini avesse cantato delle canzoni dalle quali gli altri sarebbero stati esclusi, forse non sarebbe stato il massimo. Questa è una scuola multietnica. Noi abbiamo una percentuale di stranieri che si aggira intorno al 20%. Non vedo che questo sia un passo indietro, il fatto di rispettare la sensibilità delle persone che appartengono ad altre culture, ad altri credo religiosi. Se un educatore, un insegnante, un preside ritiene che il problema sia Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe, ha sbagliato mestiere e dovrebbe essere licenziato in tronco domani mattina. Il 25 dicembre nasce Gesù Bambino, poi ognuno può credere nel Dio che vuole, ma togliere Gesù Bambino, tu scendi dalle stelle, il crocifisso dalla scuola, secondo me non fa un buon servizio all'integrazione, anzi ci fa passare come un paese di bamba. E noi diamo il buongiorno all'assessore all'urbanistica della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi. Buongiorno. Buona domenica, grazie per essere con noi di domenica mattina. Con lei non vogliamo parlare tanto della questione Natale, perché io sono stato assente e giustificato perché mia moglie ha partorito ieri 3 giorni, ma credo, come diceva Carlo, mi confermi, no? Se ne è parlato abbastanza direi, di questo granchione. Esatto, poi se vuole intervenire naturalmente. Quanto invece della questione se dobbiamo, possiamo o no, questo programma si può fare, costruire una moschea a Sesto San Giovanni, perché la Regione Lombardia ha, diciamo, posto qualche piccola obiezione. Assessore, resti con noi, facciamo un'informazione sul traffico e poi torniamo tra pochi secondi per parlare con lei. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Si può fare, si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Making thicker all night, praying for an angel to be in my life. I'm just trying to do it right, and I'll do anything for a righteous wife. I be praying all night, I wanna turn up in paradise. I be praying all night, I swear I've been bearded all my life. No, I'm not a terrorist, no, I'm not a terrorist. I'm telling you I'm innocent, and I don't know a terrorist. I'm a Muslim man. Shut up. Gotta stay clean when I'm on my deen. I'm a Muslim man. Make them say I mean I'm a Muslim man. E allora abbiamo già annunciato, in linea con noi c'è l'assessore Beccalossi, l'assessore lombarda all'urbanistica Viviana Beccalossi. In Italia c'è un problema di moschee, nel senso che non ce ne sono abbastanza e spesso le persone di religione islamica si devono a pregare, a portare avanti la loro fede in centri, diciamo così, di fortuna. Con tutti i problemi che ne conseguono. Adesso però sulla moschea di Sesto San Giovanni la regione Lombardia ha messo, diciamo, una parola che è un no, mi pare di aver capito. Cioè voi dite questo progetto non si può fare, perché? Noi abbiamo detto che innanzitutto bisogna seguire delle regole, come dappertutto in Italia avviene per qualsiasi struttura. Le faccio un esempio. Io ho 15 anni che sto seguendo le paratie di Como piuttosto che un intervento sul lago d'Idro che porterà 50 milioni di euro di investimenti per mettere in sicurezza il lago d'Idro. E tra le varie procedure, ricorsi, controricorsi, 12 per la cronaca, stiamo ancora lavorando per costruire queste strutture che servono per mettere in sicurezza la popolazione. Questo per dire la lungaggine spesso della burocrazia italiana. Beh sì, in effetti siamo tristemente abituati a questo. Però, siamo a favore della lungaggine. Prego? Non siamo a favore della lungaggine. Il fatto che ci siano altre lungaggini non è che uno dice, siccome noi abbiamo delle lungaggini è giusto che tutti abbiano delle lungaggini. Io non ho detto questo. No, prego. Ecco. Dico che purtroppo in Italia la burocrazia è lunga e questo spesso lo si giustifica dicendo che sì. A, lo si fa per trasparenza, B, dobbiamo considerare tutti i problemi possibili, i problemi che ci possono essere per l'apertura di un centro commerciale piuttosto che per la messa in sicurezza di un paese, se gli interventi vanno bene o non vanno bene, fatti in modo. Ok, ma quindi è un problema tecnico, diciamo, questo qua. Sì? Quindi chiedo scusa, sì. Anche per quanto riguarda la costruzione delle moschee in generale, sì. E nella fattispecie di Sesto San Giovanni, noi abbiamo dato delle regole per la costruzione di nuovi luoghi di culto, tutti, dalle chiese cristiane a quelle valdesi a quelle induiste, compreso per le moschee. Però quindi lei si riferisce alla legge regionale che è stata di recente approvata? La legge regionale sulle moschee, in base alla quale io ho scritto una lettera al sindaco di Sesto San Giovanni per chiedere se ha rispettato tutte le norme, esattamente come ho scritto a Pisapia per quanto riguarda la costruzione della moschea a Milano, per chiedere se sono state rispettate, e non mi risulta, tutto quanto previsto dalla nuova normativa sui luoghi di culto, non sulle moschee. Ok, però ma che cos'è che non è stato così capiamo, no? Sì, prima però le voglio fare una domanda di metodo. La legge regionale si applica, che è stata approvata adesso, si applica anche ai progetti che sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della legge? Perché qualcuno dice che queste leggi non dovrebbero essere retroattive. Questa è una questione, diciamo, di metodo. Ma guardi che già prima che ci fosse la legge regionale sui luoghi di culto, non sulle moschee, c'era comunque una normativa che è la legge regionale di urbanistica, che per i tecnici è chiamata legge 12, che prevedeva determinate caratteristiche, bravo, come ad esempio il fatto che fosse previsto nel piano regolatore, quello che oggi si chiama piano di governo del territorio. E quindi venendo all'inghippo, diciamo, a quello che secondo voi, diciamo, non viene rispettato in questo progetto di questa moschea, qual è l'aspetto, diciamo, del regolamento per spiegare che, un cittadino di Sesto, questa moschea non bisogna costruirla perché non rispetta quale norma? Non rispetta il fatto che non fosse che fosse previsto dentro il piano regolatore e oggi, visto che questa moschea ancora non è stata costruita, è evidente che deve rispettare la nuova legge per quanto riguarda la costruzione delle moschee e di altri luoghi di culto. Questa legge prevede, tra le altre cose, che ci siano parcheggi, prevede che ci siano una serie di strutture. Perché il progetto della moschea invece non prevedeva i parcheggi? Erano senza... No, prevede ad esempio che ci sia tutto un sistema di videosorveglianza che sia collegato con le forze dell'ordine. Prevede, ad esempio, sì, che questo progetto venga sottoposto a quella che viene considerata BAS, ovvero sia che, come in tutti gli altri progetti importanti, i cittadini possono essere consultati per sentire se si può fare o se non si può fare, cosa che qualsiasi progetto di una certa importanza deve subire. Un centro commerciale, prima di essere aperto, deve passare da questa procedura che si chiama BAS, ovvero sia anche dei singoli cittadini possono intervenire dicendo che ci sono problemi di collegamento, piuttosto non ci sono strade, cioè, quindi la ma e come mai loro sono così, allora ci sono ovviamente delle... Ma come mai loro non sono passati attraverso questo iter? Lo deve chiedere al sindaco di Sesto San Giovanni, non certo a me. No, e quindi c'è stata... che, e io mi chiedo come mai ci si accorge oggi che improvvisamente questa moschea non ha i parcheggi. A parte che non credo che ogni chiesa in Italia abbia bisogno di un parcheggio. Ogni chiesa ha bisogno di un parcheggio? Glielo chiedo a lei, che forse lo sa meglio di me. Purtroppo per fortuna, le chiese italiane cattoliche costruite di recente, lei mi insegna che sono davvero molto poche. Certo, vabbè, però se è una regola che ogni chiesa deve avere un parcheggio, immagino che comunque ci si organizzi affinché ogni chiesa vale abbia un parcheggio. Ma vale per le nuove costruzioni, immagino. Ah, solo le nuove? Penso di sì, perché altrimenti dovresti radere al suolo o dei palazzi a fianco alle chiese dei centri storici delle città, oppure le chiese stesse. Scusi, è evidente che non è retroattivo rispetto ad una chiesa costruita nel secolo scorso. Certo. Lo dice il buon senso, abbia pazienza. No, certo. Mi chiedevo... Una cosa qualificante, secondo me, sì, di questa legge è che si debbano sentire anche le forze dell'ordine rispetto alla pericolosità o meno che venga costruita una nuova, ripeto, chiesa, sì, piuttosto che moschea, in un particolare quartiere. Ecco, in un altro. No, questo mi sembra, questo assessore mi sembra più di... mi sembra un punto più importante, perché tra l'altro io personalmente sono d'accordo sul fatto che se si costruisce un centro di culto di 2400 metri quadrati come dovrebbe essere questa moschea, nuovo, bisogna sicuramente preoccuparsi anche dei parcheggi per evitare, come per qualunque anche altro luogo pubblico, perché bisogna preoccuparsi anche di quello. Però sai perché le facciamo queste domande? Perché si ha la sensazione che a volte la Lega, per un motivo o per l'altro, ci sia c'è un po' questa questione che siete sempre un po' contrari a dare spazi, maggiori spazi, per questioni forse, diciamo, anche di consenso elettorale, no? Allo straniero di turno, al musulmano di turno. Non è così, non è che alla fine c'è sempre una scusa per voi per dire di no a una moschea? Beh, innanzitutto va detto che io sono di Fratelli d'Italia e sono ex Alleanza Nazionale, non sono della Lega, che sono amici alleati con i quali... No, adesso parlavo del governo Lombardia, della regione, sì. Però io non sono della Lega Nord. Ho portato avanti questa legge perché credo che sia giusto che si rispettino determinate regole, che non si può... È un problema che è venuto avanti adesso, perché fino a qualche tempo fa non vi era un problema di costruzione di nuove moschee o di nuovi luoghi di culto. E posso permettermi di aggiungere un particolare, sì, che magari... Certo. Vi è sfuggito o non avete voluto affrontare? A me è sfuggito affrontare. Tutto noi questa settimana. Noi l'abbiamo provato un anno, sì, fa, nell'ultimo anno, sì, neanche a farla apposta, qualche cosa nel mondo è successo rispetto al terrorismo internazionale. Quindi credo che sia anche importante, come dire, noi che dobbiamo rispondere ai cittadini, garantirli per quanto possibile, che per quanto riguarda la costruzione di questo tipo di nuove strutture, laddove fuori ombra di dubbio... Sicurezza e controlli, però forse, ecco, anche proprio per quello che è successo a Parigi bisogna anche interrogarsi sulla laicità di uno Stato aperto a tutte le religioni. Lei su questo è d'accordo? L'esigenza della moschea c'è? Fatta in regola? Ma assolutamente sì, ma se rispettano le regole, ma sulla laicità dello Stato ci mancherebbe altro. Se però per laicità dello Stato significa chiedere scusa tutte le volte che si avvicina una festa tradizionalmente cattolica, come può essere ad esempio Natale, fra no, ma non era questo, dobbiamo chiudere, in realtà dobbiamo chiudere, non c'è tempo per questo argomento. Grazie assessore, grazie mille per essere stato con noi davvero di domenica, però questo era un altro argomento, tra l'altro non abbiamo il tempo, c'è il GR 800 24 00 24, dopo il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo Vatilix. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Riprendiamo il nostro riepilogo dei temi, delle notizie di questa settimana, sempre a caccia di buone notizie, di questo tipo di spunti Si può fare. Allora, adesso ci apriamo un po' al mondo, ci apriamo un po' ai temi internazionali. Fino adesso anche l'abbiamo fatto, abbiamo parlato di moschee. Sì, però a Sesto San Giovanni, moschee, la questione del Natale, per esempio, cose italiane. Adesso, sempre in tema, diciamo così, il viaggio del Papa, tema religioso, ma qui la religione c'entra poco, perché durante il suo volo di ritorno all'Africa il Papa, tanti spunti in questo viaggio in Africa, però ha detto una frase su l'uso dei preservativi. Sentiamo. Non è forse il tempo di cambiare la posizione della Chiesa in questo senso e permettere l'uso dei preservativi per evitare nuove infezioni? Sì, è uno dei metodi. La morale della Chiesa si trova, penso, in questo punto davanti a una perplessità, o il quinto o il sesto comandamento. E qua adesso il problema è come interpretare queste parole del Papa. Beh, però lui alla domanda: non è il momento che la Chiesa cambi posizione sul preservativo e apra l'uso del preservativo? La prima parola che lui dice è sì, è un metodo, lui dice. Poi dice sì. Quindi, insomma, intanto ammette il fatto che sia un metodo, mentre fino all'altro ieri era il diavolo il preservativo. Sì, sì. Però non è che sta dicendo si può usare. Il dubbio fra il quinto e il sesto comandamento, che credo che sia tra non commettere atti impuri, sì, e non uccidere, quindi se è una vita o... Però scusami, io non sono preparatissimo sui comandamenti, mettiamo anche che io non li conosca, però se mi dicono il Papa alla domanda sull'uso del preservativo risponde sì, è un metodo, sì, io, perché se sono un cattolico, mi ritengo legittimato, sì, ad utilizzarlo. Ma secondo me è più interessante il fatto che definisca, no, il dubbio gigantesco sulla questione dei preservativi lo definisca una perplessità. E poi direi che abbiamo capito soprattutto una cosa: al Papa bisogna fare le domande quando è di ritorno in aereo. Tutte lì, perché sempre. Tutte lì, sempre viene in aereo. Fuori di tutto. Cioè, secondo me c'è tutta la Chiesa che treme e dice: oddio, forse oddio è l'unica cosa che non può dire. Dice: vero, porca miseria, il Papa è in aereo, chissà che cosa dirà. E sono viaggi lunghi, tra l'altro, soprattutto dall'America. C'è un sacco di domande. L'Africa è un po' più vicina, insomma, è uscita fuori solo questa cosuccia qua sul preservativo. Immaginatevi un viaggio in Giappone. C'è stato il Papa in Giappone ancora? No, forse no. In Cina, c'è stato in Cina il Papa? Comunque è sicuramente un tema fondamentale. Mi sembra importante che sia stato in Africa e si sia parlato di AIDS, visto che è la maggior causa di morte. Lo abbiamo toccato questo tema, è un si può fare anche questo, abbastanza importante, molto importante. Usate il preservativo se fate sesso, diciamo, non sicuro in qualche modo. Questo diciamo noi, che non siamo un po' meno autorità morale, ma insomma siamo qualcos'altro. E ci ascoltano, insomma. E adesso andiamo con gli ascoltatori, perché stiamo cercando un personaggio della settimana, tra poco, anzi no, abbiamo, cosa abbiamo, la voce, sentiamo la voce di Hollande su COP21, anticipiamo anche questo tema, gira già una bozza di accordo tra i paesi sul clima, sentiamo cosa ha detto Hollande questa settimana. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. Le réchauffement annonce des conflits comme la nuée porte l'orage. Il provoque des migrations qui jettent sur les routes plus de réfugiés che non genera le guerre. Adesso provvederemo alla traduzione. Esatto, io sentivo bellissimo questo suono, però adesso tu lo traduci. No, in realtà ero un po' distratto perché stavo guardando le telefonate degli ascoltatori. Io conosco il francese, perché o me lo fate risentire e ve lo traduco, oppure vi la beccate così com'è. Ma insomma, frasi di circostanza sul clima, cambiamento climatico. Adesso poi l'importante è vedere, lo vedremo tra poco con un nostro grandissimo amico e ospite che sta andando là e lo sentiremo. Ci farà un po' da guida. Intanto però, ascoltatori, cerchiamo un personaggio della settimana che ha combattuto una battaglia. Stefano ci chiama da Genova, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Ciao. Pensavo, è una saggista inglese, Iona Heath, che ha scritto un libro, Modi di vivere, che parla della battaglia compiuta da Peppina Englaro per la figlia. È un libro sull'eutanasia, diciamo, ecco. È un libro scritto da, io ho capito, da una stagista inizialmente, invece è una una saggista. Medico e saggista, medico e saggista. Anch'io avevo capito stagista, ammetto. È un libro di moda, non è così. Stefano, io non conoscevo. Ha già i suoi anni questa donna. Io non conoscevo questa autrice, non conoscevo il che non vuol dire che non possa essere una stagista, soprattutto in questo paese. No, tranquillo, sì, infatti a me per lavoro mi chiamano stagista, anche se ho 57 anni. Vedi. Ma spiegaci un attimo di questo libro, è un libro che ha avuto successo in Inghilterra, perché noi non lo conosciamo. No, io ne ho letti dei pezzi così, sì. Adesso me lo sono messo nella lista della spesa come ebook da comprare, bravo. I vari per Natale da regalarmi. È un saggio sicuramente che merita, interessante, però come avrai capito noi siamo completamente all'oscuro di questo argomento, quindi quando vado in bicicletta che brutto tempo provo sempre a telefonarmi. Hai fatto bene, grazie Stefano. Grazie mille, e comunque un saggio sull'eutanasia che mi sembra importante, mi sembra un tema che prima o poi anche questo paese dovrà affrontare. Dovremo affrontarlo prima o poi, perché direi che con la anzianità che avanza sempre di più delle persone è un tema sicuramente. Sì, certo. Grazie Stefano. Grazie e mille. Con questa parlata genovese, poi che è bello sentire gli ascoltatori con i loro dialetti. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vogliamo aggiungere un indizietto o aspettiamo? Io lo aggiungo. Lo aggiungiamo? Aggiungiamolo. Allora, non ha combattuto da sola. Questo è il secondo indizio. Il primo è che ha combattuto una battaglia, il secondo è che non ha combattuto da sola. Traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Si può fare cronache da un paese migliore. Intanto voglio ringraziare alcuni degli ascoltatori che su WhatsApp, per esempio, mi fanno i complimenti per la nascita di Olga, della mia seconda bambina. Grazie a tutti, sono parecchi e non li nomino uno per uno, ma insomma grazie davvero. E poi c'è un po' di commenti sulla questione del Papa, per esempio. Dunque, intanto, come volesse dimostrare, il Papa non ha detto di usare il preservativo, scrive un ascoltatore al 349-238-6666. No, ma infatti 666. L'abbiamo sottolineato. Sì. Non è che ha detto di usarlo, ha detto sì, è un metodo. Però, insomma, se vogliamo prendere la parte positiva, ha detto, io ripeto, ha detto sì. Poi c'è chi dice, giustamente, ma c'è ancora chi non usa il preservativo se non ha l'autorizzazione papale? Questa è una bella domanda. Secondo te c'è, sono certo. persone che si fanno questa domanda? No, è più una questione, secondo me, di moral suasion, di opinione, come dire, di opinione autorevole. Non è che uno prima di usare il preservativo si fa la domanda se il Papa l'autorizza o no. Beh, però ci sono persone se il Papa non l'autorizza, molto religiose, non nascono che... tutta una serie di meccanismi, la pubblicità, la comunicazione nelle ma scuole. Ci sono anche un sacco poco. Di persone che credono fermamente e che quindi ascoltano. Tu dici e... che ci sono persone che proprio ti credono talmente tanto che nel momento di fare quell'atto lì si domandano cosa direbbe il Papa prima di fare una qualunque cosa. Sono religioso e quindi non uso il preservativo perché è sbagliato secondo i regolamenti della mia religione, quello è. E allora però su questa la spazzatura di Marco Saltatempo salutiamo il nostro Rossano Ercolini, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato Rossano, un grande abbraccio a te che... Anche a voi. Che sei il nostro caro amico in partenza tra non molto, credo, per Parigi, COP21. Sì. Martedì. Sarai in mezzo ai grandi e potrai raccontarci ancora più da vicino quello che sta succedendo a Parigi. Noi ti abbiamo chiesto di introdurci un po' a questo argomento, tanto perché COP21, questo nome? Che vuol dire? Semplicemente è un acronimo che indica la conferenza delle parti, è un incontro che si svolge a vari livelli, quello ufficiale coinvolge le delegazioni governative ed è lì che si gioca, è tra gli uomini e le donne di potere che si giocano le possibili soluzioni. E poi soprattutto mi fanno sapere ci sono 40.000 persone che tra attivisti, esperti, scienziati cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché questa davvero non sia l'ultima occasione, ecco, che si possa cominciare un nuovo percorso, perché i problemi ambientali globali sono gravissimi. Ecco, no, scusami se ho iniziato così chiedendoti delucidazioni sul nome, perché questo COP21 sembrava un po' un nome in codice, chissà che cosa vuol dire. No, ma è Conference of Parties. La conferenza delle parti, la 21ª edizione di questa conferenza delle parti. Quindi diciamo che, ecco, fino ad oggi la domanda potrebbe essere: tutte le altre 20 edizioni non hanno prodotto grandi risultati? Oppure invece, Rossano, tu che sei, insomma, hai avuto questo riconoscimento, premio Nobel, lo diciamo mille volte, dell'ambiente, Environmental Global Prize nel 2013, e che in queste tematiche ci sei da una vita, è cambiato un po' il modo nel mondo in cui ci si approccia a questo problema? Oggi siamo consapevolissimi che bisogna agire, no? Sì, questo diciamo da quando la conferenza di Rio ha aperto, è andata oltre lo sviluppo sostenibile, ha ritenuto che la sostenibilità ambientale dovesse diventare diciamo il must, insomma l'impegno principale dei governi. In realtà poi successivamente le occasioni mancate non si contano, però nel frattempo la percezione sul piano scientifico, sul piano culturale, sul piano antropologico è cresciuta tantissimo. Cioè potremmo dire che cresce la consapevolezza, per fortuna, ma i risultati, insomma, quando si tratta di stringere, un pochino scarseggiano. Questo un po'. Beh, perché queste scelte che dovranno essere fatte nell'immediato mettono in discussione interessi consolidatissimi. Pensiamo alle industrie petrolifere, pensiamo alla chimica. Queste lobby naturalmente remano contro. Infatti questa era una delle domande che ti volevo fare. Chi è che rema contro? Adesso ce lo spieghi meglio. Qual è invece l'altra domanda? È l'obiettivo che bisogna raggiungere o che si sono dati le persone che hanno convocato l'ONU? L'obiettivo minimo, almeno. L'obiettivo minimo di COP21. Dunque, intanto la conferenza prioritariamente sul clima, sul cambiamento climatico e quindi sulle terapie, sugli obiettivi, si discute di gradi. Io obiettivamente, che muovo dal versante della cittadinanza attiva, non sono in grado dal punto di vista scientifico di dire se la riduzione di 2 gradi o la riduzione di 1,5 gradi saranno sufficienti negli anni a venire ad evitare i disastri che si paventano, anzi che si assicurano, ahimè. Consolati, però, Rossano, secondo me non lo sa nessuno in realtà se sarà sufficiente, però insomma, l'obiettivo sono questi 2 gradi. Sì. Però, per esempio, io che vengo dal versante rifiuti zero, che quindi crede che il problema principale sia quello di evitare gli sprechi, sì, lo sperpero di combustibili fossili, possibilmente azzerare il ricorso ai combustibili fossili utilizzando la materia, utilizzando le materie prime e seconde che ci mettono nella condizione di non dover andare ad estrarre nuovamente materiali inquinando e consumando risorse finite, credo che questa conferenza rappresenti ben più di una conferenza sul cambiamento climatico, ma rappresenta davvero l'ultima chiamata per garantire un equilibrio tra il nostro pianeta, i livelli, diciamo, di funzionamento naturale del nostro pianeta e il nostro stile di vita e soprattutto l'organizzazione economica che di qui a 50 anni guideranno i paesi più importanti al mondo, perché poi voi lo sapete, gli accordi sembra che siano un dirittura d'arrivo, però ci sono i paesi del terzo mondo che giustamente dicono: non potete venirci a dire a noi, farci la predica, quando voi avete consumato tutto il possibile. Vogliamo ancora consumare un po' di carbone, vogliamo ancora consumare un po' di combustibili fossili, e qui intorno a questo sta ruotando. Sembra, però, le notizie che arrivano sembrano relativamente ottimistiche. Perché sì, infatti, che è una posizione che mi sembra anche interessante, perché effettivamente uno dice, noi occidentali improvvisamente diciamo basta, abbiamo consumato troppo, fermi tutti, però noi abbiamo consumato troppo quasi sempre sulle spalle degli altri, e adesso dire agli altri adesso basta consumare però carbone. È questo qui, perché noi ci permettiamo in certi momenti di essere moralisti, no, noi abbiamo tutto chiaro, ma sono gli altri che sono arretrati. Il problema è che noi moralisti abbiamo fatto quello che adesso la Cina, quello che adesso l'India, l'Indonesia stanno facendo, e che loro cercano in qualche modo di prorogare chiedendo che siano i paesi ricchi, cosiddetti sviluppati, a pagare il loro minor sfruttamento delle risorse. Giustamente, io credo che siamo proprio noi, sono i paesi ricchi, in particolar modo gli Stati Uniti, ma anche l'Unione Europea, a dover fare la propria parte, a finanziare questa marcia indietro, questa graduale transizione per ritornare ai cicli naturali, per poter consentire un futuro ai nostri figli e alle future generazioni. D'altronde è abbastanza normale che paghi chi ha consumato, da quando hanno inventato i ristoranti è così, quindi dovremmo capirlo, chi consuma paga. Certo. Ma l'opinione pubblica, secondo me, fa la differenza, perché i meccanismi governativi sono sempre irrigiditi, sempre stretti, ma poi... E poi sono suscettibili anche delle pressioni che arrivano, no, da parte della società civile, cosiddetta delle opinioni pubbliche. Sì, sicuramente. Teniamo conto che, tra l'altro, si svolge in un contesto particolarmente carico di simboli, a Parigi, dopo l'attentato terroristico. Io, nel mio piccolo, ovviamente temevo che l'attentato terroristico avrebbe messo la sordina agli esiti, al dibattito interno alla discussione sui cambiamenti climatici. Beh, non è stato così. Proprio è vero. Il fatto che si stanno svolgendo a Parigi. Assolutamente, è quasi il contrario. C'è una gran voglia di discutere di questo, che è il futuro, no? Che è il nostro andare in avanti e guardare comunque avanti. Però c'è una cosa, voglio riprendere quello che dicevi tu, no? Perché tu, che sei, diciamo, in Italia, ma anche in Europa, uno tra quelli che hanno portato avanti per primi l'idea dei rifiuti zero, cioè che i rifiuti bisogna azzerarli, non esistono, non vanno soprattutto bruciati. È talmente importante questa cosa che non so quanti sanno che il primo, diciamo, la prima causa di gas serra, di queste emissioni di gas inquinanti che riscaldano il pianeta, è proprio bruciare i rifiuti, cioè il 35%, secondo una delle stime che ho letto in queste settimane, è proprio questo. Quindi le due cose sono intimamente connesse. Rossano, chi sono invece quelli che remano contro, secondo te, a Parigi? Un po' lo hai già detto. Dunque, detto in modo ultrasintetico e un po' sloganistico, ma che non aggira la realtà, è l'industria sporca. Sono quegli interessi che lucrano sulla distruzione delle risorse e sull'uso smodato delle stesse, magari attraverso speculazioni. Per cui fondamentale all'interno del panorama delle multinazionali. Non tutte le multinazionali sono legate all'industria sporca e non necessariamente tutte sono dalla parte sbagliata, ma ahimè la gran parte sì, e in particolar modo, come dicevo prima, sì, lo sanno anche i bambini, l'industria del petrolio, l'industria delle risorse esauribili, dei combustibili fossili, preoccupata anche del fatto che deve garantire il massimo profitto ad un bene che sta per esaurirsi, perché tutti discutono che per quanto altro tempo ancora potrà estrarsi il petrolio, forse per 50, 60 anni. Sì, alcune stime dicono, ma forse anche meno. Stime delle stesse grandi compagnie che stanno sfruttando il petrolio. Loro lo sanno quanto ce n'è e dicono appunto questo. Quindi non è che si può andare tanto in là nel tempo. Giusto per puntualizzare, in effetti, le emissioni prodotte da bruciare i rifiuti, il 35%, poi c'è il carbone, il 25%, e le emissioni prodotte dalle industrie, diciamo, legate al petrolio sono il 21%. Quindi si parla spesso del petrolio come principale indiziato, ma lo ripeto, il principale indiziato è proprio le emissioni che derivano dai rifiuti, dal bruciare il metano che viene emesso per questo. Pensate se si facesse quello che Rossano Ercolini dice che bisogna fare in Italia, e lo stiamo facendo nel mondo, e anche lo stiamo facendo, ma la strada è lunga. Si abbatterebbero solo in quel modo lì il 35% di tutte le emissioni che producono il riscaldamento globale. Rossano, tu in quale tavola rotonda, dove vai? Dove sei seduto? Dove ti cerchiamo? Ma non so se sarà possibile raggiungermi. Io sarò all'Hotel Ibis, sì, a Parigi. Francamente non conosco i dettagli, la città di Parigi, sono stato un paio di volte ma non di più. Ma come? No, bellissima. Ma non volevamo farti un'improvvisata in camera, volevamo capire che cosa andavi a fare, per la conferenza, con chi ti troverai a dialogare. Io sono ospite della Goldman Foundation, sì, che sarà ai massimi livelli a far il tifo, a far pressione a livello di, appunto, di incontri stampa, per cui in particolar modo ogni vincitore del Goldman Prize delle edizioni passate, sì, avrà a disposizione, tra virgolette, una platea di giornalisti, una platea di esperti, di opinion maker, per far rimbalzare con forza il proprio messaggio. Io in particolar modo Rifiuti Zero lo porterò allo Zenith, incontrerò Rifiuti Zero Francia, avrò incontri con la Global, con i gruppi che organizzano le battaglie contro gli inceneritori e a favore dei Rifiuti Zero, e poi avremo due eventi in cui incontreremo delegati che partecipano alla conferenza ufficiale, e la sera dopo una cena di lavoro con potenziali finanziatori delle nostre campagne. Mi raccomando, questo è importante. fateli sganciare il più possibile. So che naturalmente questi sono filantropi, sono persone. Speriamo, sì, di poter intercettare un po' di supporto economico in modo tale da dare costruire dei piccoli staff, promuovere campagne che arrivino anche sull'opinione, all'interno, che condizionino, che coinvolgano l'opinione pubblica. Questo è il vero problema, perché spesso a noi ci riconoscono, sì, di fare delle cose egregie, però purtroppo non abbiamo quell'accesso ai fondi, alle risorse. Ecco, rimane sempre una cosa, sì, sono bravi, hanno anche ragione, però facciamo in altro modo, ora detto in modo estremamente certo, popolare. Ecco. Beh, hai un arduo compito, riuscire a farti dare dei soldi in cambio di spazzatura credo che sia sempre difficile. Ma no, la spazzatura sta dando... Beh, le industrie intelligenti del futuro lo stanno facendo, certo. Produciamo è una risorsa la spazzatura, in realtà. I prodotti dalla placca... Quanto a me piace sempre quella statistica che tu sai dire bene, non è una statistica, è una misura. Quanto oro c'è nei cellulari... che si buttano via, non so se anche negli smartphone o nei vecchi cellulari, c'è un grammo ogni non mi ricordo quanti. Ma mi sembra adesso non ti ho, vorrei. Ti ho colto impreparato, ti ho colto impreparato. Che si dimenticano. Sì, ogni, mi pare ogni, ci avevi detto ogni... Di grammi in una decina di cellulari o, sì. Oppure... Cioè in ogni cellulare c'è un decimo di grammo d'oro. Ogni 10 cellulari c'è un grammo d'oro e insomma buttarlo via. Perché solo per dire una cosa. Rossano, un grande abbraccio. Noi vorremmo essere lì con te in settimana a Parigi perché sarebbe bello andare una delegazione di giornalisti. Sicuramente porterò il vostro impegno, il vostro messaggio, perché guardate, era già un po' non ci sentivamo, sì, ma ci mancavi. Una mancanza, sì, che fa riflettere. È uno spazio molto importante quello che voi mettete a disposizione, per cui se volete io sarò un po' anche un po' il vostro corrispondente. Ma così ci fai troppo onore, certo, così certo ci fai troppo sì. Onore. Grazie, no, Rossano. Voi che mi confortate, perché è un po' questo collegamento con la società civile più avveduta, e voi sicuramente rispetto a quella società civile più disponibile rappresentate un avamposto e date uno strumento di riflessione, tra l'altro anche leggero, perché come dice il mio amico Paul Connett bisogna anche divertirsi in queste battaglie. Beh, siamo emozionati, direi che è l'endorsement più bello che abbiamo mai ricevuto e quindi ti ringraziamo moltissimo. Detto da Rossano Ercolini, veramente ci fa emozionare. Grazie Rossano, grazie. Grazie mille. Ma no, ma noi è la nostra puntata di Natale questa, Alessio, sì. È giusto. Ma noi in realtà andiamo dietro ho scoperto che noi andiamo dietro a Rossano Ercolini, Rossano Ercolini viene dietro a noi e quindi praticamente si sta creando che qualcuno sappia la strada, un giro giro tondo. Cosa c'è? C'è la pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, intanto un ascoltatore, Stefano da Padova, che al 349-238-6666 dice che ho sbagliato a dire bruciare i rifiuti genera il metano. No, ha sbagliato, sì, semmai anidride carbonica. Allora, siccome mi sono preparato, ho studiato, allora è così. Nei rifiuti si genera il gas metano, naturalmente. Quando tu li bruci, anziché fare come dice Rossano Ercolini che li recuperi, ma li bruci, come ogni volta che bruci il gas, come anche la caldaia di casa quando brucia il gas produce emissioni, queste emissioni creano il gas, creano l'effetto serra, quindi questo diciamo è la concatenazione degli eventi. Credo di aver detto bene, Stefano da Padova, poi siamo sempre disponibili a correggerci. Allora, per il riepilogo della settimana andiamo avanti, abbiamo la base o no? E base sia. Allora, c'è un non si può fare, che è quello di Tito Boeri, Stefano Boeri, no, il fratello economista, questo, giusto? Esatto, presidente dell'INPS, che ha detto ai giovani di oggi: ragazzi, rischiate di lavorare fino a 75 anni e prendere un assegno del 25% più basso rispetto ai pensionati di oggi. Un messaggio sconfortante, ma è la verità. Sì, ma soprattutto detto dal capo dell'INPS, non capisco esattamente, nel senso che sta mettendo le mani avanti, dice comunque sia io non riuscirò a darvi la pensione. No, è un'operazione trasparenza. Sai che fino a qualche tempo fa i simulatori dell'INPS non funzionavano, cioè se tu eri in quelle condizioni lì, un precario, non potevi neanche fare il caso di quella che sarebbe stata la tua pensione, perché temevano che la gente si sarebbe spaventata al punto da fare una rivoluzione, forse. Ho capito. E invece Boeri ha varato questa rivoluzione di trasparenza, sì, dice le cose come stanno. Che poi trasparenza mi sembra un urlo di abbandonate la nave, perché è difficile. Ma, così ma non è colpa del presidente dell'INPS. Ma non lo metto in dubbio, solo che in teoria uno è lì per risolvere questo problema, non semplicemente per comunicare la fotografia, ovvero non ci saranno soldi. Semmai potrà succedere un giorno che il presidente dell'INPS se ne andrà sbattendo la porta se non sono state fatte quelle riforme che devono essere fatte per evitare che succeda questo. No, ripeto, vorrei semplicemente che il tutto non diventi semplicemente un io l'avevo detto, perché a me di io l'avevo detto non è che mi serve moltissimo nel momento che scoprirò che non avrò la pensione. Sentiamolo Boeri, vai. Stiamo parlando della generazione 1980, cioè persone che avranno 70 anni nel 2050. Con le regole pensionistiche del contributivo le persone che non raggiungono un certo ammontare di prestazione prima dell'età pensionabile, che si muove con l'aspettativa di vita, rischiano di non avere alcun reddito. Quindi c'è bisogno che ci sia quel sistema di assistenza di base che protegga queste persone contro il rischio di povertà. Caro Boeri, noi siamo con te in questa operazione di trasparenza, però a questo punto ha ragione Carlo, devi fare qualcosa, devi impegnarti perché le cose cambino e i 35 anni di oggi non restino fregati. Però nell'audio in realtà si sente, sì, si capisce meglio che in realtà, certo, Boeri sta dicendo questa, certo, è la situazione, quindi dobbiamo attuare dei correttivi di modo che il reddito minimo te l'ho detto, ma tu non mi ascolti, a postissimo. Allora sentiamo invece questo, sì, è un si può fare, è una buona notizia perché la ripresa, la ripartenza, adesso la vedremo dal punto di vista dei commercianti. Sentiamo prima Renzi. L'anno scorso la disoccupazione ottobre 2014 stava al 13%, oggi è 11,5%. La disoccupazione giovanile stava al 46%, adesso è al 39,8%. Se uno è contento perché è al 39,8% va ricoverato. Nel giro di un anno e mezzo questo benedetto Jobs Act ha fatto 300.000 posti di lavoro in più. I segnali di ripartenza ci sono. Sono sufficienti? Io non mi accontento mai. Allora, perché ogni volta che parla Renzi si apre un dibattito, ma è tutta propaganda, sono tutti annunci, Jobs Act non serve a niente, eccetera, eccetera. Però ci sono le stime sui consumi del Natale fatti dai commercianti, per la prima volta in 7 anni sono stime positive. Quindi ecco, c'è sempre questa questione che quando si parla di numeri è molto difficile, che uno dice 46% però prima era 39%. Siamo un po' con la famosa battuta dove uno dice a un politico, dice, ma lei è veramente stronzo, e lui risponde sì, stronzo, però sono il 20% meno stronzo dell'anno scorso. Questa è buona. Adesso sentiremo questa questione delle stime sul Natale, però intanto facciamo un ascoltatore, ce l'abbiamo, sì, per il gioco. Buongiorno a Domenica, che chiama da Reggio Emilia. Sì, buongiorno. Buongiorno, io pensavo Emma Bonino perché mi fa piacere avere questo pensiero, che abbia vinto la sua battaglia. Bene. Emma Bonino è un personaggio, non dico tutte le settimane, però è stato anche spesso già il nostro personaggio della settimana, sì, e quindi se lo meriterebbe molte settimane, ma non è il personaggio di questa settimana. La nominano spesso, ma non è. Grazie Domenica. Grazie mille. Allora, facciamo il traffico, sì, e poi vediamo, ma gli diamo subito il buongiorno. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi Confcommercio, buongiorno. Buongiorno. Perché per una volta finalmente anche voi vi unite, diciamo così, al coro degli ottimisti, si può dire? No, non lo sapevo. Basta, è finita la pausa. La pausa ha detto tutto. Direi che lo traffico sapevo. E poi. Beh, giusto. Ottimisti no, però insomma qualcosina, sì, dai. Più, quant'è più che prevedete? Più 7? No, più 5? Ma soltanto per guarda. Oddio, sta cadendo la linea. Lo riprendiamo dopo il traffico. Torniamo subito. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, riprendiamo l'intervista. C'è Mariano Bella? Sì, ci sono. Eccolo, adesso lo sentiamo forte e chiaro. Allora, insomma, c'è questa stima sui consumi del Natale, più 5% rispetto a, insomma, all'anno scorso. Un più non si vedeva da un po' di tempo. Io ho detto, voi siete ottimisti? Lei ha detto subito no. Però. No, non nel senso che non c'è bisogno di ottimismo o di pessimismo. Noi facciamo un po' di ragionamenti e un po' di analisi, sì. Poi ognuno se ne fa quello che crede. 5% vuol dire che mediamente riteniamo che chi fa regali, che sono l'85% dei soggetti intervistati, possa spendere finalmente più dell'anno scorso in misura pari al 5%. Bisogna anche considerare, questo implica il fatto che noi non siamo particolarmente ottimisti, che dato anche questo 5% del 2015, stiamo ancora come media dei regali di Natale a meno 30% rispetto al 2009. Quindi, come dire, abbiamo intrapreso un percorso, ma la strada, è lunga. I livelli importanti, come sempre, dipende anche da, esatto, da dove si pone l'attenzione. Sì, perché sì, in effetti, dicendola in quest'altro modo, erano 7 anni che c'era un segno sì, meno, questa volta c'è un segno più. Uno dice, ah, finalmente, esatto, come dice lei, abbiamo invertito sì, la tendenza, no? E quindi. Esatto, cosa che poi si vede anche sì, per esempio sull'occupazione. Sì. Il Presidente del Consiglio diciamo, è un po' fissato sul commento dei dati mensili dell'occupazione. E questo secondo me non è una buona pratica, perché quei dati sono dati provvisori. Ogni volta che lui dice, cioè escono fuori i dati con un bel più, lui li commenta, viva, poi dopo qualche giorno arriva la correzione, magari esatto, a ribasso, e quella passa sotto silenzio. È così? È una correzione matematica, perché sono dati provvisori che sono sì, frutto di elaborazioni econometriche. Se invece guardiamo i dati, diciamo, più nel lungo periodo, effettivamente c'è la conferma che un po' di occupazione in più c'è, però ecco, non insisterei sui decimali mensili, perché diciamo è un po' fuori luogo, però un po' di ripresa c'è. La cosa brutta è che purtroppo nei primi mesi del 2015, mentre ci aspettavamo un'accelerazione, non so, più 0,3, 0,5, 0,7, abbiamo avuto 0,4, 0,3, 0,2, e questo un po' dispiace e preoccupa, cioè un'altra volta nel nostro paese, appena vediamo degli impulsi di ripresa, subito questi impulsi tendono a sgonfiarsi. E come mai? Come mai, ecco, secondo lei? Perché purtroppo non abbiamo risolto le zavorre, non ci siamo tolti quei pezzi che frenano la crescita. Mariano Bella, io glielo dico, la sua voce va e viene alla nostra linea, per cui ogni tanto sentiamo lo 0,3%, ogni tanto sentiamo l'1,4%. Sì, praticamente è così. Però, cioè, diciamo così, no, al di là poi dei numeri, delle stime, poi ognuno si fa anche l'idea che crede, insomma, lei l'ha spiegato chiaramente che cosa sta succedendo, questa inversione di tendenza, ma siamo sempre lontani da quelli che erano i consumi di Natale di una volta. Però io, cioè, anche così un pochino per scherzare, volevamo capire se per una volta potevamo sentire un commerciante, un rappresentante dei commercianti che era col sorriso, che non si lamenta, perché spesso siete un po' così, cioè, ah signora mia, sapeste, non è più il Natale di una volta, e uno rimane un po' così, dice, mamma mia. Sì, poi lo dicevo un po' la caratteristica, non tanto dell'ufficio studi, ma dei nostri associati, ma vabbè, insomma, no. Invece questa volta possiamo guardare un pochino più col sorriso. Pronto, ecco, proprio quando dovevamo sorridere va via la linea. Quando hai detto sorriso, mi sa che, eccolo. Pronto. Per Natale deve comprare un nuovo telefonino, non so se questo aumenterà di qualche percentuale. Non lo so, mi trovo abbastanza bene. Sì, comunque vuol dire... Non ce la facciamo, è incredibile. No, vabbè, dobbiamo salutarlo anche perché siamo quasi in chiusura e dobbiamo ancora dare la linea a un altro ospite. Per cui, Mariano Bella, che magari ci sta ascoltando, grazie. Grazie mille. Il Centro Studi di Confcommercio, un abbraccio. A presto. Se siete dentro del 15% di quelli che non fanno regali di Natale, come abbiamo sentito prima, io direi regalate un telefonino a Mariano Bella. Esattamente, no? Esattamente. O a chi ne ha bisogno, ovviamente. Chi ne ha bisogno. Va bene, adesso che dobbiamo fare? Abbiamo aspetta, perché mi sono perso qua. Ti sei perso. Oggi è una puntata incredibile. Io intanto visto che secondo dopo le dico sempre in chiusura, intanto sì, dico che il 9 mercoledì sarò a Osimo a presentare il libro Fossi in te, io insisterei, in provincia di Ancona. Ma ci tenevo a dirlo. Dove non sei andato, un paese. Piano piano le sto facendo tutte. Poi in realtà ti devo potresti dire ancora un libro cosa sui borghi d'Italia. Esatto. Aspetta, adesso dobbiamo fare due cose, quindi dobbiamo andare di corsa. Valerio da Modena intanto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. In particolare buongiorno al mio papà, congratulazioni. Ah, neopapà, ho capito, al mio papà, scusa Valerio, oggi sono proprio fuori di testa. Al neopapà, ho capito, buongiorno al mio papà, dico va bene, ci sarà un motivo. Grazie Valerio, anche a te e a tutti gli ascoltatori che hanno voluto farmi gli auguri per questo... Mia paternità, è nata Olga, lo ridico perché magari chi si è perso la prima parte del programma. Soprattutto perché lo possa bambina sentire Olga. Sì, no, è un saluto anche a Viola, l'altra figlia, se no si offende. Benvenuto, però non è di questo che volevamo parlare, Valerio, o sì, invece? No. No, io volevo dare la risposta al personaggio. Chi è? Ottimo. Per il personaggio. Secondo me è Saturna, la mamma di Luana Englaro, che è mancata questa settimana. Bravo Valerio, bravo, grazie. È assolutamente sì. Lei, e ne approfittiamo per salutare Beppino e per ricordare Saturna Englaro, la moglie di Beppino, che è sempre stata al fianco della battaglia di Beppino, nonostante avesse deciso di non mostrarsi praticamente mai sotto i riflettori. Questa era anche una tutela dello stesso Beppino nei confronti della moglie, che addirittura venne praticamente costretto a confessare il fatto che la moglie fosse malata di tumore quando qualcuno iniziò ad insinuare che Saturna non appoggiasse la battaglia del marito Beppino, cosa ovviamente non vera, la battaglia la fecero insieme. Grazie. Era giusto ricordarlo, e avevamo scelto per questo lei come personaggio della settimana. Adesso è il momento di salutare Filippo Cellini, buongiorno. Buongiorno a voi. Organizzatore del Gran Premio del Doppiaggio, è un'iniziativa che vede coinvolta anche Radio 24, quindi dobbiamo spiegare due cose: cos'è questo Gran Premio del Doppiaggio e che c'entra Radio 24? Allora, innanzitutto tanti auguri per Olga. Grazie. Mi sembra la notizia del giorno, quindi è giusto che sia così, e soprattutto anche la mamma che ha fatto sì, lo sforzo maggiore. Io non ho fatto quasi nulla, pensa un po'. Comunque, fatemi dire due cose: che il premio del doppiaggio è il premio più importante che c'è in Italia sul doppiaggio, appunto. Quindi diciamo che in un certo qual modo è il premio più importante che c'è al mondo sul doppiaggio, perché noi in Italia siamo i più bravi del mondo a doppiare, questo è chiaro. E Radio 24 è diventata parte di questa iniziativa perché abbiamo trovato insieme la possibilità di promuovere lo strumento di comunicazione più forte del mondo, che è la voce. E voi utilizzate la voce per dare informazioni e trasmettere contenuti, il doppiaggio serve per invece dare voce a dei personaggi che altrimenti sarebbero per una gran parte della popolazione incomprensibili in lingua originale. Quindi in questo senso c'è questa unione, questa partnership. Fatemi dare due informazioni sul premio del doppiaggio: come ho detto, è il premio più importante che c'è in Italia su quest'arte, nella quale siamo i più forti di tutti, e diamo ogni anno i premi un po' tipo gli Oscar ai doppiatori migliori, al miglior adattamento, alla miglior direzione, voce maschile, voce femminile. Quest'anno una grande attenzione alle serie TV, che nel mondo dell'audiovisivo diventano sempre più importanti come contenuti. In più quest'anno diamo anche un premio particolarissimo alle edizioni d'autore, perché non tutti sanno che poi chi è che decide il doppiaggio dei film sono i distributori, non i produttori dei film, non quelli che mettono i soldi per produrre il film, ma quelli che decidono, andando in giro per il mondo, di trovare un bel film e di portarlo qui in Italia. E questi sono i distributori, che spesso e volentieri portano dei film apparentemente non così. Dobbiamo però chiudere, Filippo, dobbiamo chiudere perché c'è il giornale radio. Grazie mille per essere stato con noi. Però dobbiamo risentirci perché è bellissima la storia del doppiaggio, cosa che coinvolge tra l'altro Radio 24. Ascoltate Voice Anatomy ogni domenica alle 14:30 e lasciate il vostro provino alla voice box al numero 800 28 12 12. Ciao a tutti, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti. Ciao.